Buonasera, benvenute e benvenuti a Cabaret Voltaire, alla quinta puntata di questo episodio, di questo podcast, settima. Alla quinta abbiamo constatato. E questa sera con noi c'è un gruppo, i Great Water Pressure. Ciao. E inizierei subito facendovi un po' presentare e raccontando un po' la vostra storia, come siete arrivati qui, come vi siete formati, quali sono stati i prequel. L'Odissea. Esatto. Ciao a tutti, grazie Laura, grazie per averci. Grazie Xalge. Cabaret Voltaire puntata 5, 5 punto qualcosa. No, siamo Great Water Pressure, appunto, siamo un progetto, un collettivo musicale di Milano, fondato circa 2 anni fa da me, da Gabra qui e tutti i nostri grandi musicisti e artisti che collaborano con noi, a cominciare da Jacopo Cislaghi, qui presente, scrittore. Delle lyrics, paroliere, Fede, Davide, bassista e batterista del progetto, ma tanti altri, Andrea Lodetti, Giuditta Furlan. Sì, che purtroppo non possono essere qui in quanto non milanesi. Esatto, è nato un po' dall'esigenza mia e di Gabra, che ci siamo conosciuti abbastanza nel 2019, più o meno in quel periodo, di cimentarci in qualcosa di nuovo musicalmente per noi. E durante il lockdown ci siamo trovati entrambi disoccupati, praticamente fortemente disoccupati, e quindi a distanza ci lanciavamo un po' progetti che strizzassero l'occhio un po' alla musica funk d'oltreoceano, nudisco, anche R&B. E poi è iniziato un percorso e nel 2023 abbiamo pubblicato il primo singolo, Weekend. Detto tutto giusto, Gabri? Mi sembra proprio di sì. Sì. Beh, possiamo anche dire che il 99% di quello che ci siamo rimbalzati nel 2009 l'abbiamo buttato. Vabbè, certo. 2019, sei vecchio. Hai detto che è uscito un lapsus. 2009. Ecco. Avevi già... 2009 era già vecchio. Eri già vecchio tu, Gabri, nel 2009. Ebbene. Ma come è nata la vostra, appunto, passione per la musica? Perché di fatto poi voi nella vita fate anche altro, no? Poi magari vi lascio spazio di presentarvi un po' meglio. E... Iaia, non sei d'accordo? Passategli il microfono. No, gli faccio solo questo, quindi non ho altro che da raccontare. Che falso! Allora, avvocato solo Gabra ha qualcosa meritevole di pubblicità. Però appunto la vostra passione per la musica nasce nel 2009, dai tempi antichi, o 2009. Sì, tempi antichi. Sì, è stata tutta la nostra vita, credo di parlare a nome di tutti, anche di Davide, Fede. Ha contornato la nostra esistenza questa quali passione. Quali sono stati i prequel, vogliamo raccontare, dell'iniziale gruppo? Ma Great abbiamo Water avuto Pressure? Abbiamo avuto prima... Sei una mezz'oretta, Gabriele. No, tra tutti abbiamo avuto tante esperienze con diverse formazioni. In primis Iaia, Edo e Fede suonavano insieme nei Red Roosters nel 67, penso. 68. Pazzesco, questa notizia mi ha scioccata. Non sapevo di questo vostro gruppo rock. Rocchettaro, eravate rocchettari. Ah, sì, rock and roll, power pop. Veniamo un po' da quel mondo lì. E io ho suonato in altre band, tipo i Dust, Donny Libra con Capiz, tra l'altro. E dopo i Red Rooster c'è stato anche una parentesi Davis, dove abbiamo suonato insieme in quest'altro progetto è lì che ci siamo conosciuti noi. Bene. Ci siamo conosciuti bene, perché prima ci conoscevamo male di vista, adesso con Davis poi ci conosciamo meglio. Mica una bugia. Ci conosciamo di vista, è vero. Non ho detto una cosa diversa. Ma e come vi siete evoluti poi, appunto, perché i Roosters erano un gruppo rocchettaro, da quello che capisco, mentre poi direi che i Great Water Pressure si inseriscono più in un ambito musicale disco, funk, R&B, e mi sono chiesta se la scelta anche musicale vostra sia stata dettata solo da una vostra passione o invece anche da un'esigenza di inserirvi in un mercato in qualche modo anche italiano, milanese. No, non è tanto questo, è stata proprio un'esigenza in quel momento di mood. Io e Gabra, chiacchierando, abbiamo scoperto di avere in comune la passione per la produzione musicale, ma anche appunto per un genere, comunque un mood, un immaginario che a Milano non era granché presente, almeno nel mondo da cui noi venivamo non era granché presente, e abbiamo deciso di cimentarci in questa sfida che all'inizio rappresentava una sfida. Sì. E quali sono stati, no scusa Gabriele, quali sono stati i pezzi significativi che in qualche modo hanno segnato magari anche un po' un inizio per voi di questo percorso e che ricordate un po' come sì significativi o importanti per esservi un po' posizionati sicuramente, ma dei nostri intendi? Sì, sì, certo. Sicuramente il lavoro più grosso inizialmente è stato fatto su Weekend, che è il primo singolo che è uscito, che è stato poi quel brano che ci ha aiutato effettivamente a capire quella che sarebbe stata più o meno la strada che avremmo poi percorso per riuscire a trovare questa impronta. Cioè effettivamente Weekend è stato il lavoro più complicato che abbiamo, perché come spesso capita la prima cosa che esce è sempre la più complicata, e comunque abbiamo avuto bisogno di tempo per capire in che direzione andare, come arrivarci e quali fossero i mezzi che avremmo dovuto utilizzare per arrivare a quel risultato. Diciamo che è stato proprio il pezzo su cui siamo nati, cioè il nostro sound si è sviluppato su Weekend, quindi ci siamo affezionati e lo consideriamo, diciamo, un pezzo cardine del nostro sound per questo. E poi c'è ancora un attimo, che è fighissimo per il discorso collettivo, e diciamo... È il primo vero pezzo in cui abbiamo contribuito, oltre che io e Gabra in fase di scrittura e produzione, anche Mark, che è un altro produttore che ci sta seguendo, in questo momento vive a Los Angeles in California, hanno suonato sopra vari musicisti, tra cui un chitarrista che vive a Berlino, Yaya ha scritto i testi della canzone, Fede e Davide interpretano questo pezzo live come meglio non si può, Andrea Lodetti ha animato il video ufficiale disegnato da Giuditta Furlan. Insomma, è stato un pezzo in cui tutti quanti hanno messo il proprio contributo. Io credo che sia il preferito da chi ci viene a sentire, per questo, che tutti un po' la sentono un po' per un pezzettino proprio, ed è bello. E da un punto di vista di inserimento nel mercato, cioè penso a magari un giovane gruppo emergente che ci sta ascoltando e che magari vuole un consiglio da persone giovani che si sono cimentati in dei progetti. Allora, più giovane Yaya, diversamente giovani. Yaya, passiamo la parola a Yaya. Quanti anni hai? La stessa loro, solo che sono di dicembre rispetto a lui che è di luglio. Quindi abbiamo tutti 30 anni. Corretto. Io ero un po' di più. Vabbè, che avrà un paio di anni in più. Cioè, intendo da proprio se dovesse, come ha funzionato per voi, cioè come se avete scritto i pezzi e poi vi siete lanciati voi individualmente a cercare dei posti dove farvi conoscere, o è assolutamente stato... sempre stato così all'inizio, soprattutto c'è stato magari un periodo forse con altre band in cui Gabra, la tua esperienza, però tendenzialmente si fa da soli quando si è giovani e nuovi. Poi quando c'è un riscontro viene più naturale poi dopo fare booking e trovare una booking. Ma e, come dire, quali sono state le difficoltà o al contrario invece le cose positive che avete incontrato in questo senso nel promuovervi? Ma le difficoltà sono sempre un po' le stesse, penso di parlare a nome di tutti per noi, a parte i nostri pessimi gusti, però... La cosa che è sempre un pochino più complicata per penso un po' per tanti musicisti che devono promuoversi, è proprio questa dualità, questa doppia vita che deve fare poi il musicista nel 2024, di dover arrangiare e suonare i propri pezzi, ma poi dover fare un po' il content creator, no? Cioè essere un po' quello che poi crea le cose da pubblicare sui social. Quello onestamente noi non siamo proprio dei fenomeni a farlo, speriamo di migliorare, però secondo me questa è la... Non c'è Clarissa che ci sente tanto, eh? Non c'è Clarissa. Ma lei è la ci prima sente. Che ce lo dice. È la prima che ce lo dice, la nostra mitica manager, che salutiamo e ringraziamo. Però diciamo che questa ci sono tante band che sono molto bravi a fare questo lavoro, ed è una cosa importante. Noi adesso facciamo le robe per conto nostro, poi in realtà dal punto di vista dei live e dal primo impatto per promuoversi, cioè offline, diciamo, quello è un po' meno problematico, perché tutto sommato Milano, per quanto sia capillare, comunque piccola, ci si conosce un po' tutti, quindi... Infatti mi interessava capire se avesse dei punti di riferimento nella piazza milanese dove come dire, avete un po' il sogno di suonare, o dove ha senso suonare per farsi conoscere, se c'è una specie di iter da seguire, no? Per crescere, se ci sono degli spazi che sono più aperti ad accogliere giovani band. Sempre meno. È come se mancasse quell'anello tra dove siamo adesso, un bellissimo spazio per artisti emergenti, e il forum di Assago, cioè manca proprio la fascia di mezzo. No, stavo pensando ad alta voce, è vero, post-Covid penso che i punti di riferimento per il, chiamalo, mid-market audience si sia un po' perso, credo sia rimasto alla fine Santeria Toscana. Santeria, c'è cioè, il Bico, la Bellezza. Sì. E... No, una volta ne avevi di più. C'era Loibo, c'era un po' di altre cose. Cioè mi chiedo anche se il mondo, perché con Edo abbiamo fatto una specie di briefing pre-puntata e avevamo un po' discusso sul fatto che col fatto che adesso esiste anche Spotify e ci sono tantissime piattaforme. Chiaro. Anche no, di internet che ti permettono di farti conoscere, forse manca invece un po' di più, è più difficile riuscire ad attirare un pubblico che diventi, come dire... È difficile fare affezionare la gente, esatto, alla tua musica, nel senso che tu, grazie alle playlist, arrivi sempre a più persone, però quelle persone, mi rendo conto anche su me stesso, che comunque ascoltando la musica, senti la playlist, senti la canzone, ci bello, ok, la salvo. Però poi non vai ad approfondire l'artista, no? Se ti rimane quella canzone lì salvata, ogni tanto ti passa, l'ascolti, però difficilmente poi ti viene da ragionare sul fatto di andare a sentire un concerto di questa... Cioè mi questa chiedo band. Per appunto, sempre nell'ottica di dare un consiglio a chi ascolta, se quanto ha senso investire da una parte sull'aspetto ovviamente di fare dei live, e quindi non so, anche l'idea di fare dei tour, di farvi conoscere non solo a Milano ma anche fuori, e quanto invece ha senso investire su queste piattaforme che riescono ad arrivare di più a un pubblico più ampio, no? Cioè come funziona, come è cambiato, cioè mi immagino anche rispetto a un contesto musicale italiano passato, e quindi non so, ai grandi della musica italiana, internazionale, che magari avevano un'altra ottica rispetto a voi oggi, come vi muovete in questo senso? Su entrambi i fronti, una cosa rispetto al passato è cambiato tutto, cioè gli ultimi 20 anni l'industria musicale è stata strapazzata. Cioè, faccio questa parentesi anche per dire quanto conta un producer oggi, no? O quanto ha senso invece imparare, come dicevi tu prima, a promuovere se stessi. Cioè quanto ha senso avere qualcuno che vi faccia un veicolo, e quanto invece ormai ci sia la possibilità di farlo autonomamente. No, è tutto in autonomia. Ormai non esiste più. Cioè, le case discografiche hanno ancora un senso di esistere. Vabbè, quelle sì, perché hanno. Cioè, alcune hanno sempre senso di esistere, perché sono effettivamente quelle che si impongono bene sul mercato musicale. Sì, sì, sì. No, è vero, però comunque hanno un ruolo sempre minoritario rispetto a come accadeva nel passato, in cui prendevano un artista che ritenevano valido, ci investivano sopra dei soldi e lo portavano, sì, lo accompagnavano al successo. Adesso tendono ad investire già direttamente verso chi ha una fan base, chi funziona, chi ha 2 milioni di follower su TikTok, oppure si sono inventati talent per riuscire, una volta lanciato l'artista nel talent, a partire da una posizione già di notorietà importante. Non ci sono più, non c'è più il percorso che c'era una volta. Sì, ma questo da tantissimi, sì, anni, da 25-30 anni, piace o non piace? Cioè, fare i talent è ancora una cosa che ha senso? Cioè, è una cosa di valore per un musicista? Io non li seguo, non te lo saprei, cioè non li seguo granché, non te lo saprei dire, non sinceramente. Non vedi X Factor. Ma io credo che se sei, diciamo, orientato nel verso giusto, la tua musica è predisposta per, tu sei un artista predisposto per, e in quel mercato ci sta. Non, non per tutti, secondo me. Ma di base, cioè, ha tutto senso, poi ognuno ovviamente ha il suo percorso, la sua predisposizione, cioè... per noi ha senso quello che stiamo facendo in questo momento, che siamo un po' slegati anche un po' dall'ottica del mercato, e lo facciamo sostanzialmente perché abbiamo voglia di farlo. Adesso ci stiamo ragionando un po' poco sull'idea del mercato di per sé, quindi... No, esatto, noi zero, cioè noi stiamo facendo ciò che ci piace fare, producendo quello che ci piace, suonarlo, portarlo in giro il più possibile, per quanto riusciamo, divertirci, e poi vediamo se nasce qualcosa spontaneo dal nostro pubblico, tutto qua. E, rispetto al contesto internazionale, perché Edo mi raccontavi che tu hai vissuto anche all'estero e che comunque hai provato anche a fare musica fuori dall'Italia, se dovessi fare un paragone... Io ho suonato all'estero, non ho mai vissuto estensivamente all'estero, però abbiamo fatto dei concerti all'estero, ho organizzato in prima persona un tour, due in realtà, sia con Davis sia con i Red Roosters all'estero. E io la cosa che ho notato, non credo che lì la situazione sia tanto diversa dal punto di vista dell'industria musicale tale quale, però ci sono più spazi sicuramente dove poter dove poter suonare. Io ricordo che per suonare in Italia a Milano era difficilissimo, dovevi avere comunque degli agganci, promoter che ti conoscevano, comunque dovevi avere delle radici nella città in cui abitavi. Invece, mandando veramente 15 mail in 15 locali tra l'Inghilterra, l'Irlanda e la Germania, avevo chiuso 4 date nel giro di una settimana. Pochissimo. Cioè, ti rispondono, ascoltano la musica, se ci stai. Vai, se ci stai. Esatto, se musicalmente ci stai, vai dentro. Ma diciamo, appunto, sempre rispetto al contesto milanese, invece rispetto al vostro stile musicale, perché penso che visto che cantate anche in inglese e quindi avete potenzialmente anche una facilità di avere un pubblico estero che vi ascolta, invece nel contesto milanese, anche penso ai diversi quartieri di Milano, avete notato se c'è un appeal maggiore o peggiore, nel senso rispetto a dove suonate o... diciamo rispetto a delle tendenze che magari vanno di più da una parte o dall'altra, o non è un fattore, diciamo, di discrimine necessariamente? Ma che, no, non credo che ci sia. Ma sul genere musicale, sì. Boh, Milano come in tutta Italia penso che la faccia da padrona, ovviamente al di là del super mainstream che senti in radio, e quindi lo mettiamo un secondo da parte, penso che lo faccia comunque da padrona quello che adesso è l'indie pop, comunque quel finore lì un po' cantautorale ma con dei suoni un po' più moderni. Quello, diciamo, che secondo me è proprio quella... Allora, devo dire che Edo aveva un'altra idea l'altra sera. No, è sul mainstream però, quindi che Gabra ha escluso in premessa. Dicevo che cioè l'industria musicale sta generando i soldi veri sulla trap in questo momento. Ah, no, certo. Però certo, è sul mainstream. No, stavo ragionando su Milano, certo. Su Milano, sull'Italia, sui contesti in cui puoi effettivamente vedere dei concerti, comunque i contesti in cui magari la gente di quella fascia d'età fra i 25 e i 35 si affeziona a qualche progetto. Certo. La vedo così. Poi ovviamente sul mainstream, la trap, quei ritmi un po' reggaeton e via dicendo, ovviamente generano, sono penso gli unici che generano veramente veri profitti in questo, sì, questo, sì, momento. Sono d'accordo. Cioè, ve lo chiedevo anche proprio perché penso, non che io sia un'esperta, ma che il vostro genere musicale sia più raro sicuramente da trovare in, cioè è una sfida maggiore, no? Perché è più raro che un gruppo appunto giovane punti, se fa questo ragionamento anche di mercato, a questo genere, e quindi mi chiedo se al di là della vostra passione palesemente ci sono stati dei momenti in cui questo vi ha creato dei problemi o degli scoraggiamenti o... Nato povero. Esatto. Gaia, cosa nato vuoi povero dire? No, non penso che abbia mai creato dei problemi, nel senso che uno fa una scelta che sta nel decido di fare questo perché voglio vendere questa musica e quindi scelgo un... c'è chi lo fa a tavolino, mm-hmm. Si può benissimo fare, nessuno, cioè è un modo di decidere di fare una carriera musicale che funziona. Non penso che nessuno di noi si sia mai sentito in no. difetto o di avere un problema perché non raccoglievamo. Penso nell'essere, come dire, accolti appunto da degli spazi o da questo contesto dove in teoria dovresti trovare un modo di uscire fuori, se questo vi ha creato degli ostacoli o meno. No, sinceramente, cioè, da quando facciamo questa cosa con Great Twitter Pressure, al di là ovviamente di non avere un pubblico oceanico, però comunque La cosa più motivante secondo me è proprio che penso che sia una cosa nuova un po' per tutti dal punto di vista del genere, che non aveva mai suonato effettivamente dal vivo questo tipo di canzoni, è che per la prima volta gli show, i concerti sono delle occasioni gioiose, no? Quindi la gente se ne va che sembra divertita veramente, quindi Poi per il resto, cioè il ragionamento ci ha mai creato dei problemi non riuscire a generare del denaro da questa cosa, non ci siamo e non ci siamo, dei volumi importanti, sì, non ci stiamo ponendo troppo il problema per il momento, nel senso siamo nella fase in cui vediamo come va, ci piace, ci facciamo divertire, ovvio, più gente lo ascolta meglio è. Però siamo fuori da quella logica di dobbiamo fare 1 milione di stream su questo pezzo, se no ci appendiamo. Cioè No. Speriamo di no. Ad esempio, vedo che si sta popolando, tra l'altro, davanti a noi in questo momento, di facce note, felici. Quindi questo è questo esattamente è ciò che ci spinge in questo, del nostro push. Esatto. E quindi se doveste lasciare un commento su come vi immaginate un po' il futuro del contesto musicale in generale, un commento anche proprio personale, sia su di voi che in generale, cosa direste? Ma su di noi continuare esattamente a fare come stiamo facendo, quindi produrre solo ed esclusivamente cose di cui siamo entusiasti, farlo il più possibile con una buona media di pubblicazioni e riuscire a suonare il più possibile in giro. Questo è il nostro obiettivo personale, e fare le cose appunto tra virgolette dal basso, cioè veramente cercare di creare una spontaneità all'interno del progetto e della fan base che sia genuina. Se mi fai un discorso invece più ampio, è abbastanza complesso, credo che nessuno abbia la risposta in questo momento storico in particolare. Io credo che ci sia qualcosa da sistemare, però ripeto, io sono nessuno, signor nessuno. Mi sembra che ci sia qualche problematica nell'industria musicale globalmente parlando, il fatto che i concerti costano sempre di più, e ha ragione, perché comunque è l'unico modo che artisti anche giganti hanno per monetizzare la propria fama. Perché ormai la musica è fruibile da chiunque in qualunque parte del mondo, real time, gratuitamente. E questo da un lato è una figata, dall'altro è un problema per un'industria che dovrebbe essere sostenibile e non può continuare ad andare avanti. Quale sarà il limite di un prezzo del biglietto? No, no, 40.000 certo. euro, sì, vabbè, poi dove arriviamo? Sparo 40.000 perché mi ricordo, ero con te, che leggevamo un concerto di Drake a Los Angeles, che le prime file erano $40.000, cioè robe senza senso. Senza senso. Certo che diventa una roba super elitaria, cioè non ha senso nel momento in cui una persona deve risparmiare, uno studente deve risparmiare 6 mesi per andare a vedere un concerto, e poi alla fine quello è l'unico concerto che andrà a guardare. Cioè, quindi magari rinuncia, anche perché magari non gliene frega niente, no? Cioè, senza mentire a noi stessi, però magari rinuncia a tanti altri piccoli concerti, magari per guardare quell'unico concerto che gli costa 150 euro, 160 euro, e poi vai sul secondary ticketing e fai i salti mortali per averli. Quindi alla fine si crea un po' meno quell'idea di capillarità della cosa. Cioè, quindi... No, credo che questo si leghi anche un po' al discorso che facevamo prima, e in questo l'Italia secondo me è un po' indietro, nel senso di creare una cultura del live. Perché sì, se è vero che il concerto costa sempre di più, è sempre più difficile andare a vedere un concerto per chi non ha una certa entrata, non sviluppi una cultura del live, perché hai pochi venue in Italia in generale, ma anche Milano, che è capitale, diciamo, insieme a Roma, della musica dal vivo, posti dove andare a vedere il live, e fai un po' fatica, mentre questo non succede. Cioè, in qualsiasi posto, adesso non so come funzioni, non so se sia legato ai soliti temi che abbiamo in Italia di burocrazie, no, problemi, però in Inghilterra questo non succede, è molto più semplice. Però c'è anche un po' più di interesse, c'è un po' di cultura, di cultura popolare, cioè nel senso, sì, che è vero, andiamo a vederci un concerto, però, invece che... Però così non la sviluppi, non coltivi questa cosa. È un circolo vizioso. Sì, assolutamente. Ma e ha senso dire quindi che proprio per il fatto che di fatto il pezzo lo puoi ascoltare anche nella tua cameretta, su Apple Music o su Spotify, l'intento ormai del concerto live sia quasi più quello di essere una cosa spettacolare più che... Sì. Cioè, sicuramente mi immagino, sì, quando io decido di andare a sentire Florence, penso vado anche perché non vedo l'ora di vedere lo spettacolo che lei farà dal vivo, piuttosto che... sentire la canzone, no? Mentre mio padre mi raccontava che quando andava a sentire Bob Marley era perché o lo sentivi in discoteca o non vedevi manco la faccia, quindi certo, c'è sicuramente un cambio. È così. Si è perso un po' di valore, diciamo, cioè, quindi è percepito, no? Meno il valore di un concerto, qualunque esso sia, se non ci sono i fuochi d'artificio, per intenderci. Esatto. Cioè, mi sembra che sia cambiato, a parte rispetto anche al discorso che avete fatto voi, che diventa anche il mezzo proprio per monetizzare da parte dell'artista il suo lavoro, ma l'intento del concerto, no? L'intento del live, cioè quello di non essere più solo il modo in cui farsi sentire, farsi ascoltare, ma quasi più uno spettacolo teatrale. Che figa come cosa, cioè comunque... Ci sta. È super, cioè ovviamente devi arrivare al... Cioè, se uno riesce a mettere in piedi uno spettacolo che sia tutto tondo, ha le possibilità di farlo. Cioè, non stiamo dicendo ovviamente che sia sbagliato frequentare i concerti, quelli grossi, sono fichissimi, cioè ci andrei tutti i giorni se potessi. Però ovviamente manca una buona parte di tutto quello che sta nel mezzo, dallo studio alla sala prove fino al concerto, all'ippodromo, a San Siro o allo Staples Center, cioè. Certo. E niente, io chiuderei chiedendovi se volete raccontarci invece un po' più intimamente com'è lavorare insieme tra di voi, cioè se ci sono un po' di aneddoti, un po' di come funziona. Iaia, non guardarmi così. Così, se volete lasciare una testimonianza per, come dire, affiliare chi è, ascolta Great Water Pressure e avere un po' più di idea di com'è il dietro le quinte tra di voi. In realtà, cioè, microfoni che volano. Devo dire che è piacevole. Cioè. In realtà è direttamente correlato al nome. Se Gabra, esatto, non avete spiegato. Se Gabra vuole spiegare da dove deriva il nome, e poi è quello che lega tutti noi. Allora, beh, il nome è una stupidata, veramente. Però prima di iniziare con Great Water Pressure, prima di perdere quel lavoro lì che poi ci ha portato a suonare, a produrre questi brani, lavoravo in un posto che era sostanzialmente una struttura ricettiva, e la cosa che ho notato leggendo le recensioni di questi appartamenti era che un sacco di americani erano molto, molto concentrati sulla qualità e la quantità della pressione dell'acqua della doccia. Quindi magari dicevano l'appartamento fa schifo, è sporchissimo, il servizio è peggio ancora. Great water pressure though. Quindi ok, ma mi sembra chiaro che possiamo chiamarci tranquillamente così e via. Quindi pessimo gusto, antipatici, grande pressione. Sì, peggio di così non si può fare, non si può trovare, però grandissima pressione dell'acqua. Quindi niente aneddoti, non volete raccontarci un... Ma no, beh, ovviamente poi adesso questa è un po' a sorpresa, quindi cioè, è difficile poi trovare quello giusto. Potremmo andare a scavare. Non so, in realtà siamo abbastanza rutinari come approccio. Poi ripeto, noiosi. Anti-rockstar. La realtà è che abbiamo paurissima di dire le cose che realmente dovremmo dire, perché abbiamo di fronte un avvocato di stirpe. E quindi è il motivo per cui non dovremmo aver paura di farlo. Esatto, siete tutelati. No, ma ti sembro micro? Ecco, appunto. Va bene, allora io chiuderei lanciando, diciamo, i vostri prossimi eventi importanti, in modo che chi ci ascolta e che si affilia. Due cose le dobbiamo annunciare qui, ora, in questo momento. Ah, dai, te lo faccio annunciare a te. Allora, intanto vorrei dirvi che i gadget migliori che io abbia mai visto prodotti da un gruppo sono fatti dai Great Water Pressure, ovvero gli accendini personalizzati. Credo idea più geniale che ci sia, e quindi per chi è in sala oggi vorrei dirvi che sono gratuiti e prendeteli, perché mi sembra un'occasione unica per avere un Great Water Pressure lighter. Esatto, corretto. Per accendere solo candele, però, ragazzi. Solo candele, assolutamente. E per riscaldare la pressione dell'acqua. Esatto, il boiler. Esatto. E abbiamo invece due annunci da fare. Il primo è che stiamo per chiudere, lo diciamo. Censura, mi è arrivata una censura davanti dall'avvocato, tra l'altro, quindi adesso sto tremando tantissimo. Che paura che mi fa avvocato, quasi peggio di Variale. Stiamo per pubblicare la raccolta dei primi 5 singoli in 10 pollici vinile, che si chiamerà Starting 5, e uscirà nelle prossime settimane. Entro l'8 dicembre, assolutamente. E 8 dicembre, dove ci sarà un live al 10 gradi nord in Barona qua a Milano, sarà l'occasione migliore per venire a prendersi una di queste edizioni limitate. Sì, edizione limitatissima, quindi questa è la prima. E la seconda, dilla pure tu, Laura, che sei allora, più... Il 13 dicembre... Sei più credibile. Il 13 dicembre, se non sbaglio, dovrebbe uscire il primo singolo del nuovo EP. Possiamo già sapere il Corretto. Titolo? No, resta segreto. Allora, inizia con la S. lo suoniamo adesso? Per i pochi fortunati presenti, no, pochi no, direi che dal brusio sotto si sentirà forse. E si intitolerà Super Senza Piombo. Bellissimo, non vedo l'ora. E poi l'ultima novità è che invece il 25 gennaio del 2025, sarà un caso, chi lo sa, uscirà, cioè ci sarà l'uscita dell'EP e quindi ci sarà un party al Circolo Agorà per chi vorrà partecipare e sentire tutti i nuovi pezzi. C'est juste? È giustissimo. Tutto giustissimo. Va bene ragazzi, allora direi che possiamo passare all'azione e far partire il concerto. Grazie a tutte e a tutti quelli che ci hanno ascoltato, a quelli che sono, a quelle che sono qui e ci sentiamo presto su queste onde radio. Grazie Exalge. Grazie mille. La puntata comunque il 6, 5. Ah, il sesso. Aspetta, devo dire una cosa perché c'è Fede che mi sta fulminando. Dai Fede, fulminando, vieni a dire due parole. Giusto, di che ti chiami Fede per far sentire la voce. Io mi chiamo Fede. Ah, certo, seguiteci sui social. Great Water Pressure su Instagram, Great Water Pressure Music su TikTok. TikTok, pazzesco, hanno anche TikTok. Esatto. Sì. Io non sì. ce l'ho, penso sì. a te. Fatelo, fatelo e seguiteci. Esatto, lo farò. Bravo Giova. Voi. Bravo Giova. E niente, grazie a tutti, grazie a Exalge come sempre che ci ospita e permette a queste meravigliose realtà di realizzarsi. Ho fatto un gioco di parole e buona serata a tutte, tutti. Grazie, grazie mille. Grazie. Grazie mille. Buonasera a tutte, un passo avanti per favore. Signor Ravano, non litigate se non sapete i testi, perché non li sappiamo nemmeno noi. Grazie Giova. Bravo Giova. Bravo Giova. Un applauso a Giova. Adesso suoniamo per la quasi prima volta dal vivo un pezzo del nuovo EP. È sempre quasi prima. Che entusiasmo. Che entusiasmo. Beh, se non volete sentire passiamo a quello nuovo. Dai che nevica. Che è sempre del nuovo EP. Tu lo sai il testo? Sì. Grazie. Mi state facendo parlare un po' troppo per essere un corista oggi. Ma sei un corista vocale. Sei un vocal leader. Vocalista. Se perdi il tempo, c'è un altro show. Sempre per te lo sai, sto sbagliando, mai che ne so. Jacopo Cislaghi. È un grande. Un applauso anche a Giova, però. Brava Giova qua. Vabbè, vi faccio vedere come si fa a fare il pubblico. Un talento naturale. Quando il maestro Capizzi vuole, facciamo una cover di Mac Miller, si intitola Small World. Maestro Capizzi sta ravanando. probably needs a two matter of whoever get my shit together. You never told me to reach the salon list. Nobody know me. Oh well, hard to complain from this five-star hotel. I'm always in a rush, I've been thinking too much, but keep it on the hush, you don't need to know just us. That's really all it takes. We don't need nothing but today, day to day, day to day, day to day, day. The world is so small, till it ain't, till it ain't, till it ain't, till it ain't. I'm building up a wall, till it break, till it break, till it break, till it break, yo. She hated when I call, and it's late. I don't wanna keep you waiting. I hope I never keep you waiting. I'm playing till I'm out of moves. No need for shame, I got low pace or slow speed. Go with the game, young control freak. It's cold in my veins, I'm below freezing. Snow season made me. They know that I still need my space. Don't wanna grow old, so I smoke just in case. She say that I blow below the waist, and a stroke is just so PGA. All I got is little bit of space and time, drawing shapes and lines of the world we made. Tomorrow may be right around the corner, but I swear it's gonna be worth it if I make you wait. The summer above, you keep pitching up. That's really all it takes. We don't need nothing but today, day to day, day to day, day to day, day. The world is so small, till it ain't, till it ain't, till it ain't. Building up a wall, till it break, till it break, till it break, till it break, yeah. She hated when I call, and it's late. I don't wanna keep you waiting. I hope I never keep you waiting. Il pezzo si intitola Ombra Fragile ed è uno dei primi 5 singoli che abbiamo pubblicato e che verrà raccolto insieme agli altri 4 nella raccolta che si intitola Starting 5, che uscirà nelle prossime settimane su vinile 10 pollici. Dai Giova. Pensieri mi sento detto così veri, sapessi quante volte li ho temuti prima d'ora. Every time I hear your voice asking to a place by the bay where we always dreamed we could stay. Quello che ho è solamente un'ombra fragile, la sento quando monte e porta solo guai, tanto poi lo sai, non mi stanco mai. Oh. Vivo così, quanto tempo già buttato via. Ciò che vuoi davvero, se mi senti fiducioso e non hai niente da sprecare questa volta, ah, puoi entrarmi sotto pelle, è la volta buona, mi gira tutto quanto da star male, male. Every time I hear your voice me lasci. Mi interessi adesso, vivo in una fantasia. Why don't you come to my place by the lake? I don't wanna feel this way. Quello che ho è solamente un'ombra fragile, la sento quando monte e porta solo guai, tanto poi lo sai, non mi stanco mai. No. La vivo così, quanto tempo già buttato via. Amico Nico, sono un po' dispiaciuto perché per una volta abbiamo suonato vicino a casa tua e non sei venuto in panda. Comunque mi comunicano che stai occupando il passo e quindi devi con un altro mezzo. Panda blu. Seduto sull'asfalto, questiona di tutte le mie disavventure in cerca di guai. Corto di benzina senza più molte occasioni di perdermi un po' in giro con te. Let's go. Sarò viaggiando per venire da te. Sotto il sole, gli schizzi sulla faccia come in riva al mare, il pollice sul cielo adesso in cerca di un altro successo, strappo che mi svolti la via, che mi allontani da sto posto, l'ho vissuta già anche i sassi ormai parlano di me, solo anzi con me ancora. viaggiando per venire da te. Compongo un messaggio per me. Yeah. Non li sento mai camminarmi addosso. Mi viene solo voglia di fumare un po' e poi volo come quando tu mi hai detto sto strabene, sì. Viaggiando per venire da te. Tanto fuori il cielo della speranza che se compongo un messaggio per me. Yeah. Grazie. Mi piace fischiare. Questo pezzo è il singolo di lancio del nostro EP che uscirà il 13 dicembre, forse. Il singolo, non l'EP. Il singolo. Forse. Mi dicono forse. Dicelo tu. Se non uscirà il 13 non è sicuramente colpa. Lo so. Sono qua, vivo in una bolla plastica e la mia era. Penso di azzettine ma poi suona la canna del gas. Mi sento così vivo ma quanto durerà. Sarei già pronto a tornare là. Se lo sa mia mamma si viene. Yeah. Entrando te ti scatto una fotografia. Sei casa mia, baci gocce malvasia. Temo le cose che non mi fai dire mai. Dimmi cosa cerchi di strano. Noia senza di te. È una noia senza di te. Na na na na na. Sono perso tra la gente. Giro dentro questa casa aspettando solo che mi chiami. Yeah. Giù al curvone come sempre. Scendo a un appartamento per piscina non succede niente. Io sì che so volere veramente bene. Camminato 5 ore sono qua. Vivo in una bolla plastica e la miele. Le penso di azzeppine ma poi suona la canna del gas. Mi sento così vivo ma quanto durerà. Sarei già pronto a tornare là. Se lo sa mia mamma sviene. Yeah. Grande te ti scatto una fotografia. Sei casa mia. Sono botte d'agonia. Nella tua che c'è. Certe notti non li dimmi cosa cerchi di strano. Dimmi cosa cerchi di noi. Siamo all'ultimo pezzo. E vorrei quindi prima fare un applauso gigante a Yahya Cislaghi, autore dei testi, cantante. A Giova, altrimenti noto come Federico Ardemagni, al basso. Bravo! Bravo Giova! Davide Capizzi alla batteria. Bravo! Sono la nostra colonna portante durante i live show. Gli unici che sanno suonare. Tra l'altro. Edoardo Grimaldi. Grazie. Gabriele Prada. Grazie a Exalge, grazie a Cabaret Voltaire, grazie a Laura, grazie per averci voluto qui, è stato bellissimo. Ci vediamo alla prossima. Grazie a voi. Se mi chiami sai e corro, non penso mi puoi ferire. Ricordo ancora quella festa, io ci vado se tu vai. Tanto il giorno dopo quel che resta è il sapore del tuo cocktail dry. Chiedevi pezzi su richiesta, offrivi in cambio tre guadagni, goodbye. Offri tutto ciò che serve, ma ricorda l'amicizia in Rai, yeah. Sono stato il tuo toy boy, quella notte senza senso. Ho pensato solo a noi, ho pensato in un tuo cenno che non concedi mai, perché ti piace scappare dai guai, come quella volta in disco, dai. Sali su da me, non temere che mi piaci, davvero da impazzire. Vengo a trovarti dai, volo sopra il cielo se mi chiami sai e corro, non penso mi puoi svenire. Pensato a cose veramente oscene, immaginandomi finalmente tuo. Pensato a cose veramente oscene, immaginandomi finalmente tuo. Davvero da impazzire. Vengo a trovarti dai, volo sopra il cielo se mi chiami sai e corro, non penso mi puoi ferire. Sali su da me. Sali su da me. Dove? Sali su da me. Avremmo finito, quindi... Ce ne andremmo! State ancora un attimo! Qualcuno mi sa dire cosa ha fatto l'Olimpia Milano? Ha vinto! grazie a tutti, davvero. Così Gracias.